Noi ci troviamo qua purtroppo perché il 14 marzo del 2000 a Gallarate, Yon Kazaku, il padre di Florina, subì una brutale aggressione da parte del datore di lavoro. Florina, vuoi raccontarci che cosa accadde quel giorno? Facendolo, No, no, hai mi già. piace. Sì, tu. Buonasera a tutti e grazie per la collaborazione a tutte le persone che hanno reso possibile questo incontro. E così come diceva Nadia, il 14 marzo del 2000, il mio padre fu vittima di una brutale aggressione del suo datore di lavoro. E mio padre era un ingegnere rumeno che per problemi di natura economica si è sempre dovuto spostare all'estero. La sua idea non era quella di diventare un uomo ricco, ma bensì di poter sostenere le figlie, cioè me e mia sorella, perché avevamo dei sogni, volevamo diventare io avvocato e mia sorella un medico, e poter dare una vita decente alla sua famiglia. Non si tirava indietro, quindi faceva qualsiasi tipo di lavoro onesto, purché questo gli permettesse di guadagnare uno stipendio e mantenere appunto noi due e la mamma, perché noi tre eravamo rimaste sempre in Romania, l'unico che viaggiava era mio padre. L'ultimo viaggio l'ha fatto in Italia. Tutte le domeniche papà ci chiamava. Ci chiamava in pomeriggio e giusto, le chiamate non erano lunghissime perché costavano tantissimo, quindi erano un paio di minuti, ma che bastavano giusto per cioè, allenire un po' la sua mancanza. Mi ricordo che una domenica in particolare, questo appuntamento settimanale telefonico saltò. Ci sembrava strano perché non era mai saltato in 2 anni e mezzo, però allo stesso tempo abbiamo pensato magari le finanze, magari non sono bastati i soldi, quindi è stato impossibile effettuare la chiamata. Abbiamo tutto, diciamo, abbiamo pensato che fosse una questione di natura economica, anche se questo non è che ci convinceva molto, era come se qualcosa di noi, non so, come un sesto senso. Avevamo già l'idea che potrebbe essere di più di solo un fattore economico. Però nessuna di noi tre, né io, né mia mamma, né mia sorella, non l'abbiamo espressa, quindi abbiamo provato di convincere una l'altra e convincere anche noi stesse che fosse stata appunto per problemi economici. Succede che venerdì mattina alle 5 alla porta della casa qualcuno disperato comincia a bussare. Era un suono lungo, vuoto, sinistro. Era quasi come se già quel suono della porta avvertisse tragedia. Poi alle 5 di mattina, con un bussare così disperato, buone notizie non possono arrivare. Ma mai avremmo pensato a quello che sarebbe accaduto. Con stupore scopriamo che era la moglie di uno dei compagni di mio padre, perché loro erano una squadra di 12 persone insieme a mio padre, che vivevano in un piccolo bilocale poco più di 40 metri quadrati, e mio padre, diciamo, faceva così caposquadra. Questa signora non ha avuto il coraggio di dirci cos'era successo. Ha semplicemente raccomandato alla mia mamma di non andare via di casa perché in mattinata, comunque ha detto prima del pranzo, arrivare a una chiamata molto importante dall'Italia perché ci sono stati un po' dei problemi con il datore di lavoro. Niente più, niente meno. Sembrava strano che non ci ha chiamati papà, che non ci ha chiamati, ci ha chiamati lui per dirci di cosa si trattava. Non avrebbe mai mandato qualcuno a darci notizie sue, quindi abbiamo subito pensato che magari non era in grado di farlo. Però allo stesso tempo diciamo che siamo riusciti a mantenere una calma molto apparente, perché dentro di noi eravamo tutte sconvolte, cioè avevamo tutte la sensazione che il mondo stava per crollare. Io e mia sorella siamo partite perché cominciavano le lezioni al liceo alle 8, quindi verso le 7 e mezza siamo partite, ma con l'idea, chissà cosa dirà il marito di questa signora, chissà di cosa si tratta, chissà cosa ci farà sapere questa chiamata. Verso le 13:30, 14, quando sono finite le lezioni, non faccio in tempo di sbarcare il cancello del liceo che vedo mia mamma. Mi sembrava strano perché avevo 17 anni, quindi era dalla prima elementare che mia madre non veniva a prendermi a scuola. Poi l'ho vista disperata, in lacrime, ho subito capito che c'era molto di più. Salite in macchina, perché era accompagnato dal suo fratello, un nostro zio che abita a 150 km di distanza. Anche lì molto strano, perché lo zio non è mai venuto venerdì, un giorno lavorativo, senza avvisare. Arrivati in macchina, mia mamma prova di raccontarci una mezza verità. Ci dice che la caldaia dell'appartamento dove papà abitava ha avuto un piccolo guasto che è esplosa e che lui è rimasto coinvolto in questo incidente. Lì per un attimo ho sentito proprio il cuore in gola, ma allo stesso tempo ho provato di ripetere più volte, non so se a mia mamma oppure a me stessa, perché ero molto confusa, che tutto sarebbe andato bene, che era un incidente e che papà era un uomo forte e che sarebbe riuscito ad andare avanti. Succedevano cose strane appena arrivate a casa, niente TV, niente radio. Ci hanno chiuse in stanza nella nostra camera da letto e ogni 5 minuti suonavano la porta, ma non ci era permesso di vedere né chi era e né nessuno ci dava nessuna spiegazione. Vedevo mia mamma, usciva, parlava, rientrava, non sapevo né con chi né su che cosa. Sono riuscita a resistere a questa situazione per circa 2 orette, forse neanche, a che ho subito capito che ci nascondeva qualcosa. Brutalmente ho chiesto spiegazioni. In quel momento mia mamma è scoppiata proprio in lacrime, disperata, e tra le grida ho capito: il tuo padre non ha avuto un incidente, è stato il suo datore di lavoro che gli ha dato fuoco. Per qualche attimo è come se la mia mente si fosse bloccata, perché non riuscivo a collegare. Mi ripetevo dentro di me ed è una sensazione, e mi ricordo benissimo anche la sensazione, nonostante 17 anni, non è possibile, ho sentito male. Invece no, invece era proprio vero, il mio padre non era vittima di un incidente domestico, era stato vittima di una follia pura, inspiegabile e ingiustificabile del suo datore di lavoro. In quel momento non ho chiesto il perché, perché io penso che nessun motivo, nessuna giustificazione può, diciamo, alleviare, può tutelare, può, diciamo, avere, cioè, nessuna ragione al mondo non ti dà il diritto di provare di togliere la vita ad un'altra persona. Quindi qualsiasi motivo ci fosse stato di mezzo non giustificava il suo gesto. Quindi, ripeto, io non ho chiesto spiegazioni, perché a me è bastato sapere che l'ha fatto. Dopo 48 ore, domenica sera, mi sono trovata in Romania da sola con mia sorella, senza una madre e senza un padre. Un padre che era ricoverato in gravi condizioni in Centro Grandi Ustionati San Pier d'Arena, a Genova, con ustioni al 95% terzo e quarto grado, con probabilità di vita vicina a zero, e con una mamma che, disperata, ha fatto le sue valigie ed è venuto a fargli, a dargli un po' di conforto, di sostegno, quindi di accompagnarlo nella sua degenza in ospedale. E lì ti rendi conto che non c'è spazio per fare la ragazzina, non c'è spazio per fare l'adolescente, che ti devi sbrigare, devi crescere, perché i problemi della vita erano quelli che noi stavamo attraversando, non il orlo scucito della gonna, oppure il rossetto troppo rosso, troppo arancione, preoccupazioni che avevano le mie colleghe di classe, coetanee mie, che io li vedevo, diciamo, in quel momento li vedevo troppo ragazzine, mi stavo chiedendo ma quanti problemi si fanno, per niente in fondo, perché la vita non è tutta qui, non è nella festa del sabato sera, ma la vita, al mio avviso, in quel momento era quello che stavamo attraversando noi, quindi dolore e disperazione. E mio padre è riuscito a sopravvivere in quelle condizioni per un mese, per 4 settimane. Ci furono grosse speranze, li chiamerei speranze, ma i medici ci hanno sempre detto di non ubriacarci con l'acqua del rubinetto, ci hanno sempre detto come stavano le cose, ma noi abbiamo sperato e creduto in un miracolo, abbiamo pensato che ce l'avrebbe fatta, abbiamo creduto che ce l'avesse, che poteva farcela. E invece il 14 di aprile del 2000, alle ore 13, il mio padre si è arreso. Dopo un lungo mese di agonia, si è lasciato andare. E lì ti stai chiedendo se, parlo per mia esperienza, se ce l'ha messa tutta, se poteva metterci ancora un po' più di impegno. E quindi ti vengono un sacco di strane idee nella testa. Ci pensi che probabilmente chi lassù, oltre le nuvole, così come mi raccontava la mia nonna da piccolina, avrebbe dovuto ascoltare le mie preghiere, non l'ha fatto, e quindi te la prendi con tutto il mondo. e te la prendi anche con te stessa. Io me la sono presa anche con me stessa, perché ho sempre pensato in quel periodo, subito dopo la sua morte, probabilmente ho chiesto troppo. Ho chiesto di frequentare l'università e sapevo che sarebbe stato un costo elevato. L'ho messa nelle condizioni di arrivare fino a questo punto. Però con il tempo ti stai rendendo conto che non sei tu il colpevole, che lui ce l'ha messa tutta. Anzi, probabilmente più di qualsiasi altro essere al mondo, perché i medici ci hanno spiegato che già per loro portare a sopravvivere una persona per 4 settimane in quelle condizioni è stato già un traguardo per la medicina. Quindi già per loro era un traguardo. E quindi ti rendi conto che lui ce l'ha messa tutta, e che l'unico colpevole è l'assassino. E chi volutamente gli ha fatto del male. Tu non hai avuto modo di visitare tuo padre mentre era in ospedale? No, io ho fatto l'ultimo capodanno del 99 con 2000 insieme a mio padre, e a gennaio del 2000 io ho visto mio padre, come per tantissime altre volte, far le valigie e ritornare in Italia. Quindi io non ho visto il mio padre in ospedale. L'ho visto in un filmato dopo che lui non c'era più. E in quel momento ho capito che era impossibile poter uscirne vivo. Quindi lì ho realizzato veramente che miracoli, cioè, era poco, cioè, era fin troppo poco sperare in un miracolo, cioè che era impossibile. Quindi qualsiasi cosa, qualsiasi ente, qualsiasi forza divina non avrebbe potuto far niente per lui. Ed è stato proprio quel momento in cui io ho capito che lui ce l'ha messa, non ce l'ha fatta, ce l'ha messa tutta, non ce l'ha fatta, ma che da probabilmente, diciamo, aveva anche smesso di soffrire, perché nel filmato si vedeva chiaramente la sua sofferenza, si faceva fatica a respirare, faceva fatica a parlare. Quindi un uomo alto più di 1,90 m, in perfetta forma di salute, che non aveva mai avuto neanche il raffreddore, vederlo poi ridotto così, mi sono resa conto che non era possibile. Infatti in quel momento mi sono anche domandata come sono riuscita per un mese a pensarci che sarebbe sopravvissuto, che sarebbe tornato a casa. E quindi anche lì mi sono scattate nella testa altre domande, altri perché e altri sensi di colpa. Ciò non toglie il dramma e la speranza in fondo al cuore che lui possa sempre tornare. Mi raccontavi quando ci siamo incontrate che ti capita molto spesso di sognare il ritorno di tuo padre. Sì, infatti non c'è settimana che io non sogni che lui ritorna. Ho provato di dare una spiegazione e probabilmente veramente io ne ho trovati due. I sogni sono desideri, e quindi Dio lo sa che la cosa che io desidero più in questo mondo è vederlo tornare. E un'altra, diciamo, spiegazione che io ho dato a tutto ciò è il fatto che vedendolo andare via con le valigie, probabilmente nel mio subconscio c'è ancora l'idea che, cioè, vederlo ritornare, perché tutte le volte l'ho visto partire e ritornare, quindi quelle valigie le ha fatte, è partito, probabilmente lo sto aspettando per disfare insieme a lui le valigie. E nonostante i 17 anni, Io lo sogno ancora. All'inizio era traumatizzante perché mi svegliavo al mattino e cominciavo a cercarlo per casa. E quando mi rendevo conto che era stato semplicemente un sogno, crollavo, quindi tutti i giorni io avevo, diciamo, ero disperata perché cercarlo per casa, non trovarlo, rendersi conto che era stato solo un sogno, non era, ha messo a dura prova, diciamo, la mia psiche. Quindi adesso invece sì, c'è la tentazione di cercarlo, ma subito mi rendo conto, cioè mi sto dicendo è solo un sogno, quindi mi ripeto che è solo un sogno, e quindi riesco a frenare adesso, a distanza di tanti anni, quel mio impulso di andare a cercarlo. Tu sei arrivata in Italia dopo aver studiato la lingua, in modo da capire quello che stava accadendo durante le varie fasi di processo. Hai scelto di fermarti in Italia e di vivere lì. Hai avuto la capacità di non sovrapporre l'immagine dell'assassino di tuo padre a quella di ogni cittadino italiano. Come sei stata capace di fare questa trasformazione? Sì, allora, ho cominciato a studiare l'italiano perché premeva tanto vedere e sapere cosa stava succedendo, perché io e mia sorella siamo rimaste a casa dopo il funerale, abbiamo deciso insieme alla mia mamma che lei doveva tornare a seguire il processo. Quindi ci teneva al corrente, ci mandava i giornali, arrivavano anche notizie, quindi premeva sapere l'italiano perché dovevo leggere, volevo leggere le sentenze, volevo leggere le giustificazioni, volevo essere informata su tutto, quindi non potevo farlo senza conoscere la lingua. E probabilmente questo mio desiderio di venire a sapere tutto quello che stava succedendo dal punto di vista giuridico ha anche accelerato tanto nell'apprendimento della lingua. Nel 2001 ho deciso di venire perché una ditta del Comasco ha pensato di intitolare la sua sala congressi Yon Kazaku in memoria di mio padre. E quel mio primo approccio con l'Italia mi ha fatto capire che c'è tanta solidarietà, che c'era tanta solidarietà, che c'era tanta gente per bene, che vicino a noi c'erano persone che ci sostenevano da tutti i punti di vista. E lì ho conosciuto sia Franca Rame che Dario Fo, che ci hanno accompagnato in tutti questi lunghi anni. E lì veramente il fatto che tu dicevi che non ho confuso Cosimo Janeccio, l'assassino, con un popolo intero, vedi, non è merito mio. Perché il mio padre ci ha sempre spiegato, non bisogna mai, diciamo, non bisogna mai catalogare oppure giudicare un'intera famiglia per quello che fa un unico membro. E mi sono chiesta, se non bisogna far questo in una famiglia di 3, 4, 5 persone, perché lo dovrei fare con una nazione intera? Quindi anche qui gli insegnamenti di mio padre sono serviti, perché è molto facile cascare nella trappola. Io vedo molto spesso e sento degli apprezzamenti, delle considerazioni molto che mi rammaricano tanto, perché quando assistiamo a fatti di cronaca orrendi, come quello che è successo a mio padre, che mio padre non è l'unico, cioè io e Dario abbiamo voluto spiegare, ma questo lo dicono anche i telegiornali e i giornali, che mio padre è solo la punta di un grande iceberg. Non è un caso isolato, non è l'unico. È successo tanti, fin troppi. E quindi si perde il senso dell'orientamento, si perde tutto ciò che la storia nell'arco del tempo avrebbe dovuto lasciarci come insegnamento, e invece di dar la responsabilità a chi il male lo ha commesso, proviamo di trovare un collegamento tra la violenza, l'aggressività dell'individuo e la gente a cui appartiene. Che questo è sbagliato, perché secondo me la violenza non ha appartenenza religiosa, non ha colore della pelle, non ha appartenenza politica e non è anche una lingua diversa. Quindi la violenza va isolata, combattuta, e solo così io penso che si potrebbero diminuire i cosiddetti, perché io li chiamo bollettini di guerra, non li chiamo telegiornali, bollettini di guerra, perché sono dei veri e propri bollettini di guerra. Tu hai ritenuto importante realizzare il libro con Dario Fo. Qual è il motivo? Che peraltro adesso è diventato anche un testo teatrale. Allora, ha sempre premuto raccontare la verità, perché nell'ultima onda del tribunale, nell'ottobre del 2003, la difesa di Anecce ha raccontato una versione che potesse agevolare la posizione dell'imputato. Una versione tutt'altra che la verità, molto lontana dalla verità. Quindi io in quel momento ho quasi visto mio padre passare da vittima per colpevole. E lì ti stai rendendo conto che se c'era ancora qualcosa in cui credere in questa vita, hai perso, è persa per strada. Quindi lì veramente anche tutti i miei ideali di vita sono crollati. Da quel momento mi sono sempre detta che avrei dovuto far qualcosa per spiegare alla gente, per far conoscere alla gente la verità, ma non la verità come la voglio raccontare io, così come mio padre l'ha raccontata, così come gli altri 11 testimoni l'hanno raccontata, così come i verbali, gli atti processuali la stanno delineando. E quindi mi sono messa a scrivere il libro. Era l'unico modo per far capire alla gente che quella versione dello straniero che è venuto in Italia con la prepotenza di rubare la feta di pane a questo imprenditore non era vero. Cioè, mio padre non aveva né carta di soggiorno, né permesso di soggiorno, né codice fiscale, né carta di identità. Era un fantasma per lo Stato, non avrebbe mai potuto rubare un giro così grande di lavoro nel mondo edile, tra l'altro, a un personaggio come Anecce. Eppure la difesa, questa variante, l'ha raccontata, e la cosa peggiore è stato che il giudice l'ha creduta, questa variante. Quindi dando retta a una falsità di questo genere fa ancora più male, cioè, perché ti stai rendendo conto che chi avrebbe dovuto tutelare i nostri diritti, chi avrebbe dovuto, diciamo, tutelare i più deboli, in questo caso dico la giustizia, non ha fatto altro che ammazzare i nostri ideali. Io in quel momento ho visto mio padre morire per la seconda volta, e questa volta per mani della giustizia. Quindi mi sono resa conto che quel fondo che abbiamo toccato nel momento in cui lui non c'era più, il momento della sua morte, non era, diciamo, il colmo, che c'era un fondo ancora più profondo. E quindi tutti questi, queste delusioni, perché poi sono state tutte delusioni, non hanno fatto altro che accumulare ulteriore male. Io devo dire che è vero, in Italia ho trovato tanta gente per bene, tanta solidarietà. Io ho fatto dell'Italia casa mia, ho una figlia nata in Italia, frequenta le scuole italiane. Non ho trovato una cosa fondamentale, giustizia. E tutte le volte che io vedo atti di cronaca in TV e vedo i parenti disperarsi e li vedo convinti che andranno in un'aula del tribunale e avranno giustizia, lo ripeto quasi in modo da provare a interagire, anche se solo un telegiornale con loro, ma lo ripeto probabilmente anche per me. Se volete capire il vero senso della parola giustizia, non andate a cercarlo nell'aula del tribunale, andate a cercarle sul dizionario. E questo è molto duro. E secondo te può esserci giustizia? Si può fare giustizia, ma bisogna avere, diciamo, delle leggi che lo permettano. Bisogna che ci sia una vera e propria riforma della giustizia, con delle leggi che puniscano realmente gli assassini, perché in questo momento passa quasi la... non quasi, dico passa. Passa e passa molto bene l'idea che l'assassino va tutelato in qualche modo. Quindi mi viene quasi da dire che la vittima, che non può più parlare, diventa un colpevole. Non è una... non è una bella affermazione quella che sto facendo. Purtroppo è semplicemente il risultato del mio vissuto. E ripeto, non sono l'unica. Perché un'altra volta i giornali e i telegiornali fanno da testimoni. Ne ho viste parecchie persone nelle stesse mie condizioni, nelle stesse condizioni della mia famiglia, che non hanno avuto giustizia. Quindi passa un'idea sbagliata. Allo stesso tempo io mi sto chiedendo, allora dove la dobbiamo cercare la giustizia? Abbiamo degli imprenditori senza scrupoli che approfittano del fatto di avere fra le mani la vita di persone che smettono di esistere per il fatto di non avere dei documenti. E la situazione economica in cui ci troviamo porta a vedere nell'immigrazione la colpa dell'alto tasso di disoccupazione. E aggiungerei anche che quasi quasi chi viene sfruttato diventa colpevole del fatto di lasciarsi sfruttare. Noi siamo qua oggi per dare un volto e un nome a questi fantomatici ladri di posti di lavoro. Per cui vorrei che tu raccontassi chi era tuo padre e come lo ricordi. Allora, prima di tutto io citerei di sottolineare che i cosiddetti imprenditori che sfruttano le persone in questo modo, io non li chiamo imprenditori, li chiamo mercenari, perché non fanno altro che sfruttare delle anime innocenti e che hanno bisogno di lavorare, che hanno bisogno di portare una fetta di pane a casa. Allora, mio padre io l'ho conosciuto poco, l'ho vissuto poco, perché io sono nata nell'82, quando c'era ancora il regime Ceausescu, e la politica per le neomamme era quasi inesistente. Quindi mia mamma fu costretta 2 mesi e mezzo, io avevo 2 mesi e mezzo, di portarmi in campagna dai miei nonni, perché doveva riprendere a lavorare. Tornavano e mi facevano visita una volta alla settimana nel weekend. Quando ho compiuto 7 anni, finalmente sono riuscita ad andare in città con i miei genitori. Quindi ho lasciato i miei nonni, che fino in quel momento erano i miei, diciamo, genitori, perché secondi genitori, non erano quelli biologici, ma loro mi avevano cresciuta, mi avevano fatto imparare a camminare, parlare, e mi sono trasferita in città con i miei veri genitori. Da lì, diciamo che erano le 89 e poi fine 89, l'inizio degli anni 90 è caduto il regime Ceausescu, quindi c'è stato lo sbando totale. Dagli anni 90 in poi il mio padre ha quasi sempre viaggiato all'estero, quindi il fatto di andare in città con loro non mi ha permesso comunque di conoscere bene mio padre, perché lui era quasi sempre all'estero. Ma nei viaggi di ritorno che faceva, nelle pause di mesi a volte tra un viaggio e l'altro, sono riuscita a passare del tempo con lui e capire come era fatto. E devo dire che mi ha trasmesso un sacco di idee sue, un sacco di convinzioni sue. Io mio padre me lo ricordo come un gigante buono e bravo, perché era questo uomo alto, più di 1,90 m, come dicevo prima, in ottima forma fisica e di salute, quindi se devo fare una descrizione, proprio io lo chiamavo il mio gigante buono e bravo. Però allo stesso tempo questo gigante era molto dolce, era molto affettuoso, anche perché anche lui si rendeva conto che il tempo a nostra disposizione era poco, perché probabilmente si doveva partire per un altro viaggio, un nuovo rientro. E quindi quei periodi brevi che avevamo a disposizione ce li godevamo al massimo. Mi ricordo che nei weekend stavamo facendo delle gite in montagna oppure sul lago a pescare, nonostante io e mia sorella eravamo due ragazze. Però era una passione sua e quindi era anche un piacere nostro, non dico una passione nostra, ma comunque un piacere. Io penso che io ho un casaco e il padre che ogni adolescente vorrebbe, perché anche nei momenti più difficili, quelli come la sua agonia in ospedale, non ha fatto altro che chiedere notizie delle sue figlie. Ripeteva in continuazione alla mia mamma di chiamarci e di riferirci da parte sua che ci voleva molto bene. Ripeteva a mia mamma tutti i giorni che lui si sarebbe ripreso e sarebbe tornato a casa da noi, perché sapeva che lo stavamo aspettando. E persino i medici di San Pier d'Arena ci hanno detto che la forza di volontà e l'amore per la famiglia hanno fatto sì che il mio padre potesse rimanere in vita per un mese intero. Quindi mi viene da dire che il mio padre era proprio un padre esempio, quindi io sono orgogliosa di avere avuto un padre così. L'unico mio rammarico è che non sono riuscita a godermelo. E penso che anche con me non sarebbe stato fantastico. Vedi, non è stato tolto solo a me la possibilità, tolta a me la possibilità di godere mio padre, ma è stata tolta anche la possibilità a mia figlia di avere un nonno. Devo dire che settimana scorsa in Italia c'era la festa del papà e io lavoro in profumeria in una nota catena italiana. E vedevo persone di tutte le età, grandi, piccoli, che si precipitavano in profumeria per un pensierino per il padre. Devo dire che in quei giorni ho avuto tanto la nostalgia di mio padre, l'ho sentito tanto la sua mancanza, perché vedere tutte quelle persone e anche i miei colleghi di lavoro, perché siamo in 10, e tutti gli altri hanno un padre, facevano il regalino, io sono stata l'unica che il regalino non l'ha fatto, perché non ha più a chi farlo. E con questi nostri clienti sono, diciamo, è nata anche una sorta di complicità, nel senso che abbiamo nascosto magari il profumo nella tazza del caffè e l'abbiamo impacchettato. Ho fatto tutto con molto piacere, ma lo stesso con con l'amarezza che io non ce l'ho più. È pesato tanto questo fato, ma pesa tutti gli anni, la sua mancanza pesa tutti i giorni, pesa tutte le volte che ci sono le feste, pesa la sua mancanza tutte le volte che andiamo a casa in Romania, ci riuniamo tutti e vediamo che un posto al tavolo rimane vuoto, che era quello di mio padre. Quando tutto era già successo, hai avuto occasione di conoscere Adriano, il compagno di lavoro di tuo padre, ed è stata solo in quell'occasione in cui tu hai potuto sapere come erano le sue condizioni di vita e di lavoro in Italia, perché lui ti aveva sempre taciuto ciò che subiva. Sì, infatti mio padre ci ha sempre descritto, come dicevo, nelle brevi telefonate e anche nei suoi brevi rientri, l'Italia come il paese delle meraviglie, un paese dove i tuoi diritti vengono rispettati, dove il lavoratore può tranquillamente svolgere il suo lavoro con piene garanzie. Ci ha sempre descritto l'Italia come un paese democratico dove la solidarietà, il rispetto verso il prossimo erano garantite. Io ho scoperto tutto quello che stava passando mio padre, e ho scoperto le condizioni in cui lavorava e come veniva trattato nel momento in cui questo ragazzo, Adriano, è piombato in casa nostra. Prima d'allora io pensavo fosse tutto meraviglioso, però allo stesso tempo devo dire che mi sono fatta sempre la domanda se i diritti vengono garantiti, se i lavoratori possono svolgere il loro lavoro tranquillamente perché ne hanno di garanzie e quindi vengono rispettati, perché si è arrivato a tal punto? La spiegazione, prima che facessi la mia lunga chiacchierata con Adriano, anzi che chiacchierata non la chiamerei neanche, perché io non ho fatto troppe domande, ero troppo scioccata da quello che stavo sentendo. È stata quella: probabilmente papà è capitato nelle mani di una persona folle, l'unico probabilmente che si poteva trovare in quella terra. Poi con il tempo ho scoperto che di folli come Janec ce ne sono fin troppi e che di persone come mio padre ce ne sono altrettante. E il fatto che in Italia, ma non solo in Italia, anche nel mondo, ci siano così tanti Yon Kazaku non era rassicurante, perché quello che è successo alla mia famiglia poteva succedere a chiunque. E visto le condizioni di lavoro e il mercato del lavoro, nessuno è tutelato. Quindi chiunque può cadere nella trappola, chiunque può essere aggredito nel modo in cui è stato fatto mio padre, perché probabilmente basta solo richiamare i tuoi diritti, chiedere quello che ti spetta, per poi averne quello che ha avuto mio padre. Una tanica di benzina, un accendino e un essere umano che è diventato una torcia viva. I soldi che ti spetterebbero alla tua famiglia come risarcimento per questa perdita, a parte che non saranno mai abbastanza, ma non li hai mai ricevuti. Se mai li dovessi ricevere, che cosa ne faresti? Allora, io parto da dire che prima che cominciassero i processi, la mia mamma ha fatto una lettera verso il giudice del primo grado, in cui lei esprimeva la sua amarezza perché il legale ci aveva informati che se non ci costituiamo parte civile, cioè chiediamo una somma di denaro, non potevamo assistere al processo in aula. A cui noi siamo rimasti scioccati, perché abbiamo detto: ma non possiamo scambiare la vita di un essere umano, in questo caso di mio padre, per una somma di denaro, importante o meno importante che sia. Quindi la mia mamma ha provato di spiegare al giudice che secondo lei non era corretto, però la legge italiana prevedeva questo e quindi lei non si è costituita parte civile, perché lei ha sempre sostenuto, così anche come noi, che lei avrebbe voluto avere mio padre, non i soldi, perché dei soldi non ce ne stiamo facendo niente senza il mio padre. Ci siamo costituite parte civile io e la mia sorella e lei ci rappresentava, ma non abbiamo mai chiesto una somma precisa. È stato il PM che ha deciso una somma e noi abbiamo detto: va bene, se la dobbiamo proprio accettare, perché se non l'accettiamo non possiamo partecipare al processo, accettiamola. È stata più che altro una formalità, perché i soldi non sono arrivati mai, perché si sa, chi lavora come Janece e sfrutta la gente così non lavora con le carte in regola. Quindi Janece, come molti come lui, al momento dell'arresto erano la tenente. Quindi non siamo riusciti a prendere nessun centesimo dei soldi, anzi pochi, che poi sono stati anche rubati nell'aula del tribunale da un suo parente. Abbiamo ricevuto solo 28 milioni su 800 milioni delle vecchie lire. Però era la prassi, quindi li dovevamo accettare. Se avessi avuto i soldi, noi abbiamo sempre detto che nella nostra città, in Romania, Râmnicu Vâlcea, non c'è stata e non c'è ancora una camera iperbarica. Quindi avremmo voluto spendere quei soldi, certo non sarebbero bastati, ma avremmo potuto magari fondare anche una fondazione, non so, avremmo fatto in un modo da poter accumulare la cifra, diciamo, necessaria per comunque per questa camera iperbarica, perché succedono di incidenti domestici e da noi in Romania e nella nostra città non c'è la possibilità. Ci sono persone che si potrebbero salvare, ma che non avendo a disposizione gli apparecchi necessari muoiono per l'infezione. Quindi abbiamo sempre pensato: possiamo far qualcosa per chi di speranza ne ha. Però questi soldi non sono mai arrivati e non arriveranno mai, perché, ripeto, Janece era nulla tenente. La nostra idea era una buona idea, perché avrebbe potuto, questa camera iperbarica sarebbe potuto essere, poteva essere utile a tante persone. Purtroppo non siamo mai riusciti ad averli. Vi ringraziamo per essere venuti. Ancora una volta ringraziamo le istituzioni che hanno reso possibile questo incontro. Grazie Florina. Grazie.